Amici e carissimi, eccoci di nuovo, presumibilmente per l'ultima puntata di questo lungo ciclo di catechesi dedicata al libro di Teneramate che stiamo, come tutti sappiamo, ripercorrendo nei tratti salienti, diciamo così, un commento un po' teologico ex post, alla luce delle considerazioni di quel caro confratello, amico e sacerdote che ne ha tradotta ne ha curato la traduzione in lingua italiana, che è Don Pablo Martin, che ha scritto poi appunto questo libretto che è fondamentalmente un commento a quanto emerge dal libro di Teneramata. Mancava pochissimo, quindi io direi di procedere così. Forse magari questa sera sarà una puntata un po' più breve, adesso non lo so come si mettono le cose, no? Proviamo a terminare la lettura e il commento del testo di Don Pablo e poi magari, come spesso faccio ai termini di cicli di catechesi, possiamo riprovare a fare un po' un flyover, una sorta di volo di gabbiano a ritroso che ridia un pochino il quadro di quanto, con l'aiuto del Signore, speriamo che questo possa essere di utilità a qualche anima, siamo venuti molto imperfettamente a tessere. Ci siamo lasciati la volta scorsa, appunto nell'ultimo ampio paragrafo, intitolato La conferma definitiva, il cielo e l'inferno. Riprendo la lettura. Ogni uomo è stato creato come un riflesso di un insieme di perfezioni divine. Non ci sono due uomini uguali. Ognuno è quella singola, inconfondibile persona che è, a motivo della sua specifica missione o vocazione per cui è stato creato, in base alla dote che Dio gli ha dato delle sue divine perfezioni, ossia in base al ritratto singolarissimo che Dio ha fatto di sé creandolo. Quindi ogni persona, amici cari, di per sé è un prodigio, un qualche cosa di splendido, di meraviglioso in quanto pensato da Dio. Noi sappiamo, per chi conosce la divina volontà, che tra l'altro, misteriosamente, nel modo che soltanto lui sa come possa aver fatto una cosa del genere, ma tutte le vite pensate da Dio, cioè dei miliardi di esseri umani, se siamo 8 miliardi adesso, quanti saremo stati? Quanti ce ne saranno stati prima di noi, da Adamo fino a oggi, e quanti ce ne saranno prima della fine del mondo? Credo siamo abbastanza tantini, quindi sono numeri abbastanza da capogiro, mi chiedo sempre, chissà quanti saranno gli angeli. Il nostro Signore quando fa le cose ti fa sempre non alla grande, alla stragrande, quindi tanta roba, no? Immaginate quindi anche la fantasia che c'ha, cioè creare miliardi e miliardi di esseri umani dove ognuno ha uno specificissimo, singolarissimo ritratto suo, una missione ben particolare, io questo lo ricordo sempre, lo ricordo anche a me, no? Noi lo dico agli amici, per esempio, che stanno ascoltando la diretta o a chi ascolterà la differita, non è un caso, non soltanto che ci siamo, d'accordo? E che siamo fatti così come siamo fatti, ma che siamo vissuti in questo momento storico preciso, così come è, con le sue bellezze e le sue cose meno belle, con i suoi travagli, i suoi problemi e anche le sue opportunità, le sue prospettive. Quindi non è mai un pensiero saggio desiderare, dice, ma se fossi vissuto in quell'altro periodo storico sarei campato meglio. No. Il nostro posto è qui. Uno potrebbe obiettare, ma guarda che gli esseri umani non è che sembrano tanto così belli. Tanto è vero che i grandi pagani, io ricordo Seneca, cioè non sono mai andato in mezzo, non mi ricordo se era Seneca o Terenzio, per la verità, ricordi della letteratura latina, uno dei due, non sono mai andato, forse Terenzio, forse questo qui, non sono mai andato tra gli esseri umani senza tornarne indietro meno uomo di prima, lo scriveva così. E Seneca diceva, se c'è una cosa che bisogna sempre e comunque fuggire è la folla, ecco perché non si rimane mai edificati, no? Come mai? Alcuni filosofi poi molto pessimisti addirittura hanno teorizzato quelli più famosi, l'homo homini lupus, no? Quindi, e poi quegli altri più ingenui che pensano che va tutto bene, il mito del buon selvaggio, no? Gli illuministi, no, gli uomini tutto sommato sono belli, sono buoni. No, non è così. L'uomo, la visione divina e cattolica dell'uomo conserva questo che ci è stato detto, ovviamente. Però non dimentica che purtroppo c'è il peccato originale, perché la presenza del peccato nel mondo non è acqua, ahimè. E quindi in un'anima che non vive in grazia, non vive stretta al Signore, tutta quanta questa bellezza non traspare, non si vede. Anzi, gli uomini possono diventare, come dice Gesù in certi passaggi, proprio dei mostri, cioè dei personaggi assolutamente insopportabili. Questo perché? Non perché l'anima non sia bellissima. L'anima non perde mai le sue dotazioni di fondo. Il problema è che tutto il problema, come risulta per chi la conosce dagli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, sta nella volontà umana, che è una grande risorsa se usata bene, ma è un grande guaio se usata male. È il dono più grande che Dio ci ha fatto, quello che più ci rende simili a Lui. Però il problema è che dopo il peccato originale, usarla bene la nostra volontà, amici cari, è un bel problemino. E se la usiamo male, che succede? Succede che la bellezza intrinseca che c'è in noi è deturpata. Possiamo fallire la nostra missione, certo. Possiamo fare il contrario di quello che Dio voleva? Ha voglia. Possiamo non tirar fuori i nostri talenti? Certamente. Non utilizzare i nostri doni? Sì. Ci ha detto anche Gesù nel Vangelo, c'è la parabola dei talenti, no? Metterli sotto terra. Sì, purtroppo. Allora, quando ci si accosta, a queste fonti, diciamo, celesti, che quindi si riscoprono queste bellezze, servono anche a farci imparare anzitutto il sano amore di noi stessi e anche magari un po' di umiltà per piangere un po', ahimè, le nostre miserie che purtroppo impediscono molte volte a noi stessi l'utilizzo dei nostri doni, dei nostri talenti, no? Ci aiutino anche, come dire, a saper vedere nel prossimo, anche in quei prossimi che a causa della volontà umana hanno di molto, diciamo, oscurato la loro bellezza ricevuta da Dio, di non dimenticarlo mai. È per questo che il Signore non vuole che si odi il prossimo, non vuole che si auguri il male, non vuole che si maledica, perché fino a quando siamo su questa terra, anche chi ha intrapreso vie balorde, chiamiamole così, è recuperabile, dobbiamo sperare che lo sia. Le situazioni diventano radicalmente irrecuperabili solo dopo la morte. Certo, quando una persona purtroppo si infogna parecchio, ma non mancano nel corso della storia della Chiesa episodi di conversioni strepitose e anche veramente miracolose, anche da gente che se uno l'avesse conosciuto prima della conversione diceva: questo non si convertirà mai, insomma, no? Ecco, quindi la considerazione e l'attenzione a queste cose deve sempre farci ricordare la bellezza di queste verità, amici cari, no? E proseguo. Pertanto, nell'ingresso che l'uomo fa nella patria celeste, la prima cosa che comprende è la sua vera identità, la sua vera vocazione terrestre e celeste espressa nel suo nome nuovo. Questo nome nuovo è una Tant'è vero che Tenera Amata, come sappiamo, è qualche cosa che assomiglia al nome nuovo, perché Tenera Amata è il nome vecchio, dice noi il nome vecchio non ci pensiamo proprio più. Beh, fa sempre un po' di specie, insomma, no? Leonardo Maria Pompei in paradiso ci sta più. Cioè, a me da piccolo non mi piaceva per niente il mio nome, adesso ho imparato a farci un pochino pace, nel senso che non mi dispiace affatto il nome Leonardo, poi che ci sia vicino Maria ancora di più, e io ce l'ho vicino non solo per la consacrazione Totus Tuus, questo è il regalo che mia mamma mi ha fatto nel giorno del battesimo, ecco, di aggiungerlo, però quando saprò chi sono, perché io no, non lo so chi sono. Un grande mistero anche a me stesso, anzitutto, insomma, però non lo so profondamente chi sono. Noi, come dire, intuiamo lontanamente forse qualcosa, no? Ma non, nessuno di noi è capace qui in questo mondo di vedere se stesso o gli altri con gli occhi con cui ci vedono dal cielo. Quando c'è qualche, come dire, manifestazione o rivelazione privata, che magari fa luce su qualche essere umano ancora vivente, generalmente escono fuori delle cose abbastanza inedite, perché si capisce che dall'alto ci sono altri occhiali, e per cui le persone che pure apparentemente sembrano, insomma, chissà, non tutto, però sono visti appunto con gli occhi del cielo. Gli occhi del cielo sono diversi da quelli della terra, no? Quindi attenzione a questa vera identità, a questo nome nuovo che scopre soltanto in paradiso, quindi penso che qualche piccolo sforzo per arrivarci ne valga la pena, perché i dannati il nome nuovo non lo conoscono, eh. Cosa dice l'Apocalisse? Al vincitore darò la manna occulta e la pietruzza bianca su cui sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non chi lo dice. Al vincitore. Chi è il vincitore? È quello che ha combattuto la buona battaglia della fede fino al martirio, perché sappiamo che l'Apocalisse è proprio intrisa di questo anelito al martirio, no? Quindi, amici cari, c'è un combattimento. Tante volte Tenera Amata esorta a Riccardo, dice, ma io voglio morire subito. Dice, no, tu cerca di crescere nella fede, cerca di aumentare in meriti, cerca di farti il più santo possibile. E tutto questo certamente avviene all'interno del combattimento spirituale. San Paolo la fede la chiama il buon combattimento. Lo è. Molte sono le prove che attendono il giusto, dicono i salmi. No, adesso non voglio mandare per storto né la serata né il weekend a nessuno, no? Ma da tutto ero libero al Signore. Questo nome ineffabile dirà ciò che questa creatura è per Dio, ciò che è e sarà in eterno il suo rapporto d'amore con Dio e con tutte le altre creature, e la sua personale eredità e dote di eterna felicità. Ecco perché è molto importante, per esempio, imparare ad essere, mi si passi il termine, sanamente se stessi. Non dico essere se stessi, perché sapete, purtroppo le espressioni a slogan del nostro linguaggio si prestano ad essere fraintese, purtroppo. Perché, vabbè, io sono fatto così, non può diventare una scusa per non lavorare su noi stessi, cercare di toglierci i difetti, o di controllarli, o di migliorare, o di crescere nelle virtù. No. Diciamo, ma io devo essere me stesso. In senso profondo, quindi quelle cose migliori di noi, ecco, quelle attitudini che quando ci guardiamo, cioè, non è una cosa buona, amici miei, cioè guardarsi né nello sguardo del superbo che si pensa di essere chissà chi, ma nemmeno lo sguardo del depresso che si pensa di essere un fallimento totale. Non è, questa seconda cosa non è umiltà. Io l'idea che mi sono fatto dell'umiltà è questa, sia quando una persona percepisce magari anche alcune doti, alcune potenzialità che ha, e poi purtroppo vede che quando le mette in atto non è che vada proprio alla grande, ecco, perché si porta dietro tare, limiti, difetti, imperfezioni che sembrano a volte quasi invincibili. E come uno capisce, dice, vedi, annazzo, cioè ogni volta che ne faccio qualcuna la devo sempre, come dire, imperfezionare in qualche modo. Però non è un buttarsi il fango addosso gratuitamente. Dio non vuole questo qui. Amerai il prossimo tuo come te stesso, no? Dobbiamo imparare un sano modo di amare noi stessi. Non possiamo non amare noi stessi, perché se io non amo per niente me stesso, sto dicendo che Dio si è sbagliato a crearmi, ma Dio non si è sbagliato a crearmi. Dio ci ha fatto come un prodigio. Dice il Salmo 138, ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Quindi capite, una sana, come dire, idea di noi stessi è una meta da conquistare, perché è difficile trovare quell'equilibrio che ci faccia avere una sana idea di noi stessi e quindi un sano amore di noi stessi, che Dio vuole. Anche alcune cose esteriori su cui io sembro a volte un pochino fissato, no? Quindi una sana ma non disordinata cura del nostro esteriore, quindi che tu sia sempre pulito, ordinato, dignitoso, ma non artefatto. Ed è l'essere artefatti, pensate un attimo a riflettere su questa cosa, no? Quando una persona altera il proprio aspetto in maniera proprio artificiale, caricata, no? Capite? Non vi sembra che dentro questa prospettiva è come se stesse dicendo a Dio: voglio farmi più bello di come hai mai fatto? Cioè, i capelli neri me li voglio far biondi. Ma noi ci chiediamo che ogni minimo dettaglio è stato pensato da Dio per te. A me pure piacerebbe averci ancora qualche capello in testa. Ma il nostro Signore non aveva pensato così. E noi sappiamo che la vita umana è fatta di tanti organismi che costituiscono il nostro organismo globale. Io ce l'ho avuto i capelli. Se uno vede le foto, no, ce l'avevo 30 anni, ancora c'è un sacco di capelli. Riccioletti. Ma non ce l'ho più. Allora, che facciamo dinanzi a una cosa del genere? Faccio il trapianto, che sarebbe ridicolo per un prete, no? Tanto per dire. Oppure cerco di comprendere, non è la cosa più importante, io faccio gli esempi esteriori perché sono quelli che, coinvolgendo i nostri sensi, rendono un po' comprensibile il concetto, no? Dico, facciamo che siamo diversamente belli. Guardate che siamo tutti belli, perché ogni ente, in quanto ente, è bello, pure quelli che non sono, che non hanno dotazioni, come dire, particolari da un punto di vista, come dire, di particolare attrattività, chiamiamola così, di particolari dettagli, no? Molto difficile trovare una bellezza perfetta e statuaria, ci stanno, però siamo tutti belli più o meno. Poi, nella misura in cui amiamo Dio, oggi è la festa di San Filippo Neri, diventiamo sempre più belli, perché la bellezza, come tante volte ho detto, traspare dal tratto, dal volto, dallo sguardo, no? Proprio dal portamento. Ecco, quindi dobbiamo provare a cercare un po' un qualcosina della nostra profonda identità anche in questa vita, anche se non ci arriveremo mai a capire bene chi siamo qui. Ma quello che possiamo e dobbiamo fare è usare bene la nostra volontà per cercare di fare il meglio che possiamo, il meglio che possiamo. Ecco, perché questa nostra bellezza e dotazione, appunto, è impastata dell'eredità del peccato originale, che c'è soltanto da sperare nel regno della divina volontà per vederla annientata o quantomeno bella, come dire, neutralizzata, se non in tutto quasi. Ecco. Con la buona morte, proseguo la lettura, l'uomo, lo spirito dell'uomo, recupera la piena libertà come ce l'ha Dio. Recupera il perfetto dominio di tutto ciò che è lui stesso, materia, energie, spazio e tempo in tutte le sue fasi corporali, presenti e viventi nell'eternità creata. Attenzione, sempre con la buona morte, cioè tenendo Tenere amata è un'anima beata, non si pensi affatto che l'anima dannata può ripercorrere la sua vita, andare, non esiste. Così come non può conoscere un nome nuovo e così come non gode la gloria essenziale del paradiso. In tutti, o meglio, come abbiamo detto, dal primo istante della sua vita, quando fu concepito, fino al penultimo istante, quello precedente alla morte, quindi in tutte. La morte ci priva del nostro ultimo involucro corporale, cioè il corpo del nostro ultimo istante. È l'ultima carta del nostro mazzo di carte. È l'ultimo foglio del nostro almanacco che cade. Perciò al cimitero non si porta nessun corpo, attenzione, ma soltanto il cadavere. Questa, se uno ci pensa, è ovvio che sia così. Il problema è che io prima di leggere Tenere amato non ci avevo mai pensato. Poi quando l'ho letto, per un attimo sono rimasto un po' disorientato, no? Dico, ma com'è sta cosa? E poi però non rimani disorientato. Ovviamente se c'hai, certamente, io ringrazio Dio, qualche anche attrezzatura teologica per poterlo comprendere, no? Soprattutto il rapporto tempo-eternità, che è proprio l'oggetto della grande rivelazione di Tenere amata, no? Quindi noi prima, magari prima di leggerlo, perché sappiamo che esiste l'eternità e che esiste il tempo e non capiamo bene in che tipo di rapporti magari stanno queste due cose, qual è la grande rivelazione di Tenere amata? La quinta dimensione, cioè l'eternità creata, cioè non l'eternità increata della Santissima Trinità, ma l'eternità creata in cui vivono e persistono immutati nei loro spazi-tempi tutti gli esseri che sono vissuti nel tempo. L'ultimo prodigio dell'amore di Dio, in ordine cronologico, sarà nell'ultimo giorno la risurrezione universale. Attenzione, che ci restituirà il nostro corpo. O meglio, più precisamente, quello che la nostra anima lascia al momento della morte, cioè il cadavere. L'integrità corporale è senza dubbio una necessità fortemente sentita dall'uomo che ha attraversato la frontiera della morte. I glorificati sono pienamente felici nella patria, ma manca loro qualcosa che profondamente desiderano e attendono: la risurrezione. È come se una persona mancasse un dito, cioè non è che dice, vabbè, ma tanto io ho tutti gli altri spazi-tempi della vita passata, e vabbè, c'è sta il cadavere, chi se ne importa, fammi a meno. In questo modo, quindi riducendo la portata della risurrezione. E no, non è così semplice. Perché, scusate, se uno è cieco, dice, vabbè, c'ho tutto, però non ce vedo. E insomma, se uno non ha le mani, dice, vabbè, però ce vedo, ma cammino. E vabbè, le mani non ce l'ho. Insomma, senza mani si campa peggio. O no? Se uno dice, vabbè, c'ho le mani e c'ho gli occhi, ma non c'ho i piedi. Insomma, non c'ho le orecchie. Insomma, non c'ho un braccio, insomma, ma pure non c'ho un dito. Il dito non è un grandissimo danno, però tu non lo senti che c'ha un dito. Se il nostro Signore ne ha creati 5, vi ricordate quando c'era veramente un film visto nella mia preadolescenza con Verdone e Sordi. Che si chiama In viaggio con papà, a un certo punto fanno una truffa, dovevano fare una truffa, dice, abbiamo fatto fare un incidente perché dobbiamo storcere i soldi all'assicurazione, te dobbiamo far togliere la milza. Dice, tanto non serve a niente, che lui risponde, dice, ma come serve a niente? Ma se il nostro Signore l'ha creata, qualcosa servirà, ma serve a niente, ti preoccupare. No, non serve a niente, serve sicuramente a qualcosa. Quindi, è come se una persona mancasse un dito, anche se fosse molto felice, che altro potrebbe desiderare se non che riavere il suo dito? Io per esempio ho avuto un piccolo incidente, no? Un piccolo incidente, diciamo, di lavoro, per giocare con i bambini dell'oratorio, pensate un po', proprio un incidente di lavoro, anni addietro, quelli stavano a giocare a pallacanestro, io mi sono messo a fare ragazzino a giocare a pallacanestro a 50 anni, e mi è presa una pallonata sul dito mignolo della mano sinistra e mi ha fatto male. Solo che pensavo che fosse come una specie di insaccatura, l'ho un po' trascurata. faceva male, dico, però dopo un po' però dico, ma sto coso mi sta a fa male assai, no? Ho fatto un po' di telefonate, qualcuno mi ha suggerito stiralo o non stiralo, insomma alla fine sono andato a fare una lastra quando era un po' troppo tardi, perché non era rotto, ma quindi poi ci hanno provato a drizzarmi, però, ma questo ormai i tendini erano saltati e questo mo me lo tengo così, cioè non è la fine del mondo, è proprio una stupidaggine. Però ogni tanto, cioè io il dito dell'indice della mano sinistra non l'addrizzo più. In qualche circostanza te ne accorgi, quindi non è la fine del mondo perché il dito mignolo della mano sinistra, insomma, non è che c'è uno che ci fa un granché. Non sono più, se, però, se suonassi ancora la chitarra come facevo da giovane, se non c'è il mignolo della mano sinistra, non la suoni più la chitarra, eh. Non la suoni più la chitarra. Uno strumento musicale non lo suoni se non c'è tutte e 10 le dita. Salvo la batteria forse, insomma, ma uno strumento non lo suoni, io non suono più, quindi non avverto troppo questo disagio, ma se avessi suonato sarebbe stata una tragedia. Quindi non è che è niente. Quindi, poi, superare positivamente la prova della vita terrena vuol dire vivere e morire in libera attenzione, libera adesione alla volontà di Dio, mediante la testimonianza di una buona coscienza. E per quanto la creatura può conoscere di Dio, ho queste espressioni, attenzione, libera adesione alla volontà di Dio. La meditazione di qualche giorno fa, bellissima, non la meditazione, ma quello che c'era scritto nel testo, Gesù che dice, la cosa più bella che ho creato è la volontà libera. C'è la vita di... Scegli tu liberamente quello che vuoi farci con la vita, ma non è bellissimo? È certo, è pericoloso, però è bellissimo. Che vuoi fare? Bellissimo, no? Poi, mediante la testimonianza di una buona coscienza. Dove la conosco la volontà di Dio? Quanto? E quanto molte volte si è fraintesi anche su questa cosa, io ho imparato nel corso della mia vita e cerco di trasmetterlo in tutti i modi possibili, anche a rischio di essere frainteso o attaccato, soprattutto dentro il mondo della divina volontà, dove non mi sembra che sempre sia così chiaro questo primato della coscienza, ovviamente la coscienza è rettamente formata. Noi abbiamo il dovere di formarla la coscienza, ma nel cuore, si può chiamare anche così, ci parla Dio. Tutti ne facciamo esperienza. Allora, cos'è la testimonianza della buona coscienza? È quando io agisco e in quello che agisco non avverto che sto facendo una cosa che non dovrei fare. E questa cosa poi diventa difficile da capire quando ci va di mezzo, che è il grande problema, l'autorità. L'autorità, si può andare contro coscienza? Contro coscienza di fronte ad un ordine opinabile dell'autorità? Questo è un grandissimo problema, questo qui, morale. Perché certo che c'è l'obbedienza. Certo che c'è l'obbedienza, ma con l'obbedienza si sottomette la propria volontà alla volontà altrui e questo va bene ed è atto sommamente meritorio. Ovviamente nella misura in cui l'ordine viene dall'autorità legittima riguardante un oggetto su cui l'autorità è competente e di per sé buono o lecito. Faccio subito un esempio per farsi capire. Io sto in monastero, chiedo il permesso di uscire e quello mi dice: non si esce in convento. Oggi non esci perché stai in convento a fare le funzioni. Che cosa c'è di male? Niente. Anzi, c'è una grande mortificazione che dico: ma tu guarda questi, ora non fa una passeggiata, mi mette a fare funzioni cose del grandissimo merito. Grandissimo merito. Però non sempre ci sono, come dire, attestati di di questo gesto. Gli esempi che mi vengono in mente sono politicamente scorretti, ecco. Però cerchiamo di arrivarci. Quindi l'obbedienza è la mortificazione della nostra volontà e a volte anche del nostro giudizio. D'accordo? Giudizio significa io penso che questa cosa sia buona. D'accordo? Me ne viene presentata un'altra che è diversamente buona. E io dico, vabbè, rinuncio alla mia idea e sposo quell'altra. Però se è diversamente buona. Ma se quell'altra cosa è cattiva o mi ripugna proprio in maniera assoluta, non perché non voglio farla, ma perché il cuore proprio mi dice, io non ce la faccio. Ecco i famosi conflitti di coscienza, la testimonianza della buona coscienza, dove ci giudica soltanto il Signore, lì entra soltanto Dio. E quando noi non seguiamo quello che ci dice la coscienza, ne dovremo rispondere a Dio, anche se dici, ma io ho fatto quello che mi ha detto Tizio Caio Sempronio, mi sono fidato di lui. Va bene, solo nella misura in cui però tu non hai contraddetto quello che ti sente, che ti senti profondamente nel cuore. Ecco, ok? E la terza cosa, dove sta? E per quanto la creatura ha potuto conoscere di Dio. Cioè, noi serviamo e amiamo Dio tanto quanto lo siamo riusciti a conoscere. Ed è in base all'amore e al servizio che gli abbiamo prestato, sulla base della conoscenza che abbiamo avuto, che saremo giudicati. Questo è morire nella sua grazia. L'opposto è morire in disgrazia di Dio. La vita terrena si deve concludere e riassumere in un semplice atto di accettazione della volontà di Dio. Dio domanda a tutti questo semplice atto di volontà, un sì proporzionato alla capacità di ogni essere umano. Anche se vive pochi giorni o poche ore nel grembo materno. Al sì creante di Dio deve corrispondere il sì libero della creatura, che è immagine del creatore. Nessuno è esentato perché ogni essere umano è creato da Dio al piano soprannaturale, con una vocazione celeste e divina. Non dimentichiamo che l'uomo vivente è la gloria di Dio. Questa è una citazione di una frase molto celebre di un grande padre della Chiesa occidentale che è Sant'Ireneo. L'uomo vivente è il concetto che Dio ha espresso di se stesso. Il corpo umano è generato in un momento determinato, in un preciso spazio-tempo. Ma la nostra anima spirituale non vi è chi possa dire sul serio in quale momento sia stata creata. Ma ad ogni modo, dalla rivelazione sappiamo che viviamo una sola vita mortale e che l'intera umanità, tutte le generazioni, abbiamo la nostra origine nell'incarnazione del Figlio di Dio. Questo è il primo capitolo della lettera agli Efesini. Ci abbiamo fatto l'ora santa negli ultimi, non questo, non la precedente, ma le ultime terza e quarta ora santa, andando insieme nel tempo, c'era proprio quest'inno. Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo. Con ciò il mistero per noi rimane. Quindi sappiamo che viviamo una sola vita mortale, che l'intera umanità, tutte le generazioni, abbiamo la nostra origine dall'incarnazione del Figlio di Dio, il primogenito fra tutte le creature, creatura, compresa la sua Madre Santissima. Non c'è una preesistenza delle anime, come pensava Platone, per esempio, cioè che siano state create in un momento temporale precedente, ma si potrebbe dire che sono create in un atto divino fuori del tempo, al di sopra di esso, semplicemente nell'atto dell'incarnazione del Verbo. È meglio dire, se mi posso permettere di correggere Don Pablo, non che sono state create fuori del tempo o al di sopra del tempo. È meglio dire che siamo stati pensati da sempre. Io preferisco dire così. Pensati da sempre contestualmente con il primo pensiero di Dio, fuori di sé che è stata l'incarnazione del Verbo e la creatura, il secondo che avrebbe utilizzato per realizzare questo prodigio. E contestualmente a questo atto sono state pensate tutte le anime. Pensate non vuol dire create, no? Ecco, perché è meglio dire pensare? Se io adesso mi attappo la bocca, io posso continuare a pensare, ma voi non mi sentite, perché il pensiero, diciamo così, è creato e quindi anche visibile fuori solo se è esternato con la parola. Se io sto zitto, il pensiero rimane per me e nessuno lo vede. O lo sente, o lo capisce. Ebbene, prima o poi, in un solo istante o durante tutta la vita, in mille modi, Dio ci domanda: senti un po', amico, mi riconosci, mi accetti? Vuoi venire con me? Ah, questa è l'ultima degli esseri umani, eh? Arriva il momento in cui. Quelli che trionfano nella prova, superata nella fede, restano confermati definitivamente, irrevocabilmente, per sempre, nel loro atteggiamento e decisione, perché l'evidenza della verità di Dio che si rivela ad essi li muove irresistibilmente verso Dio, il sommo bene, l'unico bene, la verità, la bellezza, la vita. Conservando intatto il libero arbitrio, sentono irresistibilmente l'attrattiva di Dio, come il sasso che, gettato nel vuoto, necessariamente precipita verso il centro della terra, da dove uscì. Allo stesso modo restano irrevocabilmente confermati nell'atteggiamento della loro volontà, coloro che rifiutano Dio fino alla fine del tempo, della loro prova. Quindi la morte e il distacco dell'anima dal cadavere, come la Chiesa ha sempre insegnato, determina la cristallizzazione dello stato in cui si trova la volontà in quel momento. Ecco perché chi ci va all'inferno, chi muore non in grazia di Dio, chi è salvo, chi muore in grazia di Dio. Salvo, quindi vuol dire che va in purgatorio o in paradiso. Che cosa rimarrà degli atti di esistenza di una vita bruciata e perduta per sempre? Ah, certo, è indistruttibile tutto ciò che proviene da Dio Creatore, tutto quello che forma ogni atto di esistenza nel suo corrispondente spazio-tempo, ma gli atti dei reprobi resteranno assurdamente privi di ogni ragione di esistere, svuotati di ogni bene, di ogni verità, di ogni bellezza della sola ed unica vita, quindi ricolmi di odio, di falsità, di bruttezza, di orrore, di disperazione, di morte senza poter morire né scomparire. La perenne conservazione dell'intera esistenza vissuta dai dannati, anziché essere inesauribile occasione di realizzazione, di godimenti come è per i beati, sarà per i dannati perenne accusa, perenne vergogna, perenne confusione, perenne amarezza, perenne odio, perenne disperazione. Capiamo questo qui, no? Sicuramente quegli atti saranno conservati quantomeno nella memoria. Cioè, tutta la storia, tutta quanta presente in Dio, cioè noi quando saremmo morti, se vogliamo andare a vedere che è successo ai tempi dell'impero romano, ai tempi dell'imperatore Adriano. Adriano non era un santo, ma se rimanessero i pensieri di Dio soltanto i santi e le cose sante, cioè sparirebbe quasi tutto, insomma, della creazione, no? Quindi, però mentre i beati si rigodono tutte le cose belle della vita, le possono anche, come abbiamo visto, rielaborare, modificare, abbellire. Io non lo so, sinceramente, se ai dannati gli verrà voglia di andarsene a rivivere. Quindi, o se semplicemente li ricorderanno, e questo sicuro, con l'orrore, con la disperazione, e magari percependo ancora tutto quanto il carico di male che attraverso quegli atti hanno generato e che adesso scontano. Sicuramente però sarà un orrore, eh? È ciò che diventa la loro vita in tutti gli spazi-tempi vissuti ma non distrutti, un solo punto di tenebre. Così come per i beati, tutta la loro vita si concentra in un solo punto di luce. Nel giorno del giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là. Sapienza 3, 7. C'è poi una conclusione che magari possiamo usare al termine di questa puntata. Questo è quanto, amici miei cari. Quindi, al termine di tutto quanto questo viaggio, possiamo un pochino sintetizzare così. Il Il Signore ha esaudito una preghiera di quest'uomo che desiderava tanto, vedete anche quanto possiamo a volte essere un pochino arditi in qualche preghiera. Desiderava tanto farsi delle certezze un pochino più solide sulle realtà escatologiche. Non è che non ci credeva, ma voleva un pochino e gli è stato concesso. Una preghiera che è stata esaudita. È una cosa buona questa preghiera. Perché in fondo questa preghiera non è altro che un altro modo per dire sia santificato il tuo nome, no? Perché conoscenze pratico-operative, come le chiama Teleama, di questo genere, sono un enorme input verso la santificazione. Perché tu insieme a quello che vedi capisci che tutto questo lo godrai più o meno a seconda di quanto ti sarai fatto santo. E quindi è una conoscenza che può aiutare, no, può di fatto certamente aiuta enormemente la santificazione. Quindi, pur trattandosi di cosa straordinaria, nostro Signore può decidere, come in questo caso ha fatto, di concederla, appunto perché è utile per la santificazione, non solo poi di Riccardo. Certamente il Signore sapeva che avrebbe messo nero su bianco, ma di molti altri che avrebbero beneficiato e goduto di queste stesse rivelazioni. E quindi questo è già sufficiente per andare intanto a Roma. Altra cosa che abbiamo imparato è che tutte le pagine bianche della nostra esistenza sono scritte e che dobbiamo fare attenzione a quello che scriviamo, che fino a quando siamo in questo mondo siamo legati agli spazi-tempi dell'istante attuale. Ci abbiamo un mazzo di carte dove vediamo sempre l'ultima carta, non possiamo vedere quelle precedenti, non possiamo andare a immaginarci quelle successive. Ecco, quindi siamo in questo stato di interdizione, siamo in stato di interdizione nel senso che sappiamo che Dio ha pensato e disposto una montagna di amori per noi, ma qui in questa terra non si può vivere quasi niente. Sentiamo l'attrattiva, quindi a vari livelli. Ma possibilità pratico-operative, salvo l'amore sponsale tra marito e moglie, il resto è quasi zero. Capite, no? E questo non faccia scandalo, perché qualcuno si scandalizza, mi ricordo qualche commento in qualche catechesi, dei tanti che mi tocca moderare, che poi non c'ho tempo, dice, oh, ma io mi sono scandalizzata. Ma questi sono tutti e due sposati, che fanno adesso? Si danno i baci compenetrativi. Ma quello c'ha la moglie e c'ha il marito. È chiaro, se uno si mette ad analizzare queste cose con questa mentalità, lasci perdere e si applica a qualcos'altro, no? È lo stesso discorso di chi si scandalizza di quando alcune mistiche e due sono attestate, io ne conosco due, una è Luisa Piccarreta e una è Santa Margherita Maria la Cocca, che cominceremo a rievocare tra poco, il mese del Sacro Cuore, e quelli ce ne avuto dei. I rapporti, cioè, con Gesù di amore appassionato. Capito? Gesù a lui se gli dava i baci. Io ricordo che cadde con qualcuna che si era un pochino scandalizzata, dice, ma no, no, non sono i baci, mica sono i baci come quelli dei due innamorati, ma sarà un bacetto sulla guancia, sarà un bacetto sulla testa. Dico, io ho capito diversamente, dopodiché c'è proprio un passaggio degli scritti un po' forte, dove però si spiega che tipo di baci dava il nostro Signore a Luisa, non erano i bacetti. È chiaro che cosa fanno capire queste cose? Che noi abbiamo degli schemi mentali. Abbiamo visto la volta scorsa anche Don Pablo dice, ma che idea ci siamo fatti del paradiso? Che cos'è il paradiso? Una cattedrale dove stiamo sempre a cantare in gregoriano? Per carità, speriamo che qualche canto gregoriano si faccia pure in paradiso, che a me piacciono tanto. Ma chi te l'ha detto che è così il paradiso? Scusate. Ah no, queste cose di Terramena, tutte quante fantasie, che so queste cose qua. E poi i grandi piatti, i grandi liquori, le grandi pietanze, ma queste che cosa sono? Sono sciocchezze, sono stupidaggini, sono antropomorfizzazioni, questa cosa è una parolaccia proprio brutta, brutta, brutta, cioè proiezioni di queste cose basse, ma te pare che in paradiso, che ci sta il paradiso, uno sta a pensare a bersi il liquore così buono? a fare le danze dentro i vulcani. Allora, chiaramente, Teheran Mata non è un dogma di fede e quindi è materia libera. Padronissimo di pensare così, d'accordo? Tanto, comunque sia, pensa quello che ti pare, tanto tra 100 anni, tutti quelli che ascolteranno a breve questa catechesi, perché non so se tra 100 anni esisterà ancora YouTube, che fine avrà fatto, e se tra 100 anni, pensa un po' se Donardo chiacchiera pure dopo che è morto, se saranno ancora i video, speriamo di no, speriamo che il nostro Signore faccia un bel reset e pulisce tutto insieme a tante altre cose, no? Ma per dire, tra 100 anni avremo visto tutti quanti, può darsi che Teheran Mata ci abbia ragione, può darsi che ci abbia torto. Su queste cose, per grazia di Dio, ecco, anche qui abbiamo la libertà di coscienza, come su tante altre cose. Io queste cose le invoco, nel senso che i dogmi della Chiesa non si toccano, cioè qui non c'è in discussione nessun dogma, c'è soltanto, come dire, una lettura approfondita di alcuni dogmi di fede. Cioè, ci credi nella vita eterna? Che succede nella vita eterna? Ho fatto le catechesi sui novissimi, si vadano ad ascoltare. La Chiesa sa che c'è una gloria essenziale in paradiso, una gloria accidentale. Teheran Mata parla della gloria accidentale e la dettaglia, la Chiesa non ha mai dettagliato, così come non ha mai detto che cosa è stato il peccato originale. E c'è stato il ciclo di catechesi dell'anno scorso. La Chiesa non l'ha mai detto, ma ci hanno pensato pure fior di padri della Chiesa e qualcosa l'hanno scritto, perché non è che, cioè, a me mi chiamavano in seminario la Santa Inquisizione, perdonatemi, potete anche immaginare perché, no? Perché figuratevi se io non sono il primo a provare almeno, queste sono le mie intenzioni, a essere più che fedeli al magistero della Chiesa. Ma non è che uno ha il bavaglio, quindi se una cosa non è stata definita dal magistero non se ne può parlare. Se ne può parlare purché non sia contro il magistero. Se è contro, bavaglio. Ma se non è contro, si può parlare, tant'è vero che un noto adagio antichissimo nella Chiesa è in necessaris unitas, in dubiis libertas, et in omnibus caritas, cioè nelle cose necessarie ci vuole l'unità. E oggi, figlioli miei cari, non è che è tanto chiara, eh? Se una cosa era male 100 anni fa, non è che oggi la Chiesa. Io, se, guarda, se volete fare proprio mettere a dura prova la pazienza e il rischio che perda il lume della ragione, quando sente, perché si sente dire da qualcuno, la Chiesa è cambiata. La Chiesa non è cambiata manco per niente, perché la Chiesa non può cambiare. La Chiesa con la C maiuscola. Certo, possono cambiare le cose esterne, possono cambiare le strutture, le leggi umane. Una volta c'era il Santo Uffizio, ora si chiama Congregazione della Dottrina della Fede, una volta c'era l'Inquisizione, ora non ci sta più. Questi sono contorni. Ma quando si parla della Chiesa si intende la sposa di Cristo, la Chiesa Santa. La Chiesa è santa per la dottrina, per la fede, per i sacramenti, quindi per i mezzi di santificazione. E perché produce i santi. Queste cose non cambieranno mai. Quindi, attenzione anche a quando io divento, insomma, però nelle cose necessarie l'unità, e oggi non mi sembra che ci sia sempre, perché qualcuno in cose che dovrebbero essere ovvie, si azzarda a arrampicarsi, come dire, a dire, ma sì, forse da un punto di vista pastorale, ma sì, dobbiamo aprire nuove frontiere, nuove prospettive, nuovi orizzonti, è ora che ci apriamo un po'. Su tutto quello in cui questo è possibile, nulla questio, ma su quello in cui questo non è possibile, questo è come. Quindi, però in dubiis, quindi ciò detto, quindi non si tocca il magistero, ci stanno delle cose dubbie. E quindi lì libertà, uno può tranquillamente dissentire. Non ci credi che il peccato originale ha a che fare con la sessualità, quindi la dimensione sessuale del peccato originale, poi come è stato quello il peccato originale o quella la conseguenza? E non ci credi. E se campa lo stesso, l'importante è che tu credi che il peccato originale è stato commesso, uno da Adamo come capostipite dell'umanità, che l'ha coinvolto su istigazione della moglie, che Eva a sua volta istigata da Satana, che questo è un peccato che ha vulnerato irreversibilmente il genere umano e che viene trasmesso per propagazione attraverso il concepimento. E se toglie col battesimo, se. Ma ne rimangono le conseguenze negative. Questa è la dottrina cattolica. Altro non c'è da. Però, posso andare a aprire degli orizzonti, dice, ma che sarà stato questo peccato originale che fa tutti questi guai? Si può? Sulla base di qualche piccolo elemento, se può. Uno raggiunge delle conclusioni e chiaramente presenta come. Conclusioni in forma non perentoria, non come dogmi di fede, ma come conclusioni che appaiono verosimili, probabili, ragionevoli, possibili, qualunque epiteto che si vuole dare. Io chiaramente non avrei fatto questo ciclo di catechesi dopo che l'ho letto 7-8 volte il libro di Ramana, anche per capirci un po', e le cose che trovo scritte le trovo oltremodo verosimili. E sto usando un'espressione ancora un pochino limitata, oltremodo, così come ritengo oltremodo attendibile, altrimenti non ci farei le meditazioni quotidiane, quanto rivelato da Gesù a Luisa Piccarreta, e così come, guai a chi me la tocca, ritengo un dono grande del cielo ciò che Gesù ha fatto attraverso Maria Valtorta. Ma ci sono, per esempio, persone sante, persone buone, persone brave, che non hanno, per esempio, alcuni che Luisa Piccarreta non scopre niente, altri che, per esempio, hanno un'idiosincrasia verso Maria Valtorta, oppure, condizionati dalle vicissitudini, per quanto mi riguarda, scatenate dall'odio satanico, però questa è opinione mia personale, vissute dagli iscritti, fanno difficoltà. Oppure su magari un po' troppo frettolosamente bollano quelle cose come spesso gli uomini fanno, come fantasie o addirittura farneticazione di una pseudomistica. Io insomma suggerirei sempre evitare queste cose un po' troppo così, no? Uno può dire, vabbè, io personalmente non mi convinco un granché, però in dubis libertas e in omnibus caritas però. In omnibus caritas. Io quando parlavamo del peccato originale c'era una posizione di un santo sacerdote che scriveva delle cose che io per dovere di correttezza ho riportato. Io dico, io chiedo perdono già da adesso al Signore, perché se questo è un santo e magari c'è pure ragione e io non l'ho capito, non mi prendo certo. No, no, no, mi sono preso la responsabilità di dargliene addosso di un sacco di tutti i colori. Però dico. Alla mia coscienza attuale, queste cose al momento ripugnano, non ce la faccio a dargli l'assenso. Poi, se un giorno il Signore mi farà capire qualcosa, la mia coscienza, come dire, si evolverà e capirò, padronissimo. Quindi, cioè, non mi sento spero di non averlo fatto, perché se l'avessi fatto me ne pento già a priori, quindi lanciare strali o anatemi o cose di questo, ma appunto perché sono cose dubbie, se qualcuno ritiene opportuno crederci, lo faccia. Ecco, c'è bisogno anche sulle cose dubbie, ecco perché la terza in omnibus caritas, di un profondo, come dire, rispetto, cioè, non è un dogma di fede. Certo, dice, ma non so, sono cose tanto belle, se uno ci credesse sarebbe molto molto meglio. E certo, perché altrimenti non sarebbero state date dal cielo se non ti farebbero andare meglio. Però se quello ancora non l'ha capito, non lo capirà a forza di insulti, perché gli insulti non si fanno mai tra noi cristiani, no? O di umiliazioni. O dire, quell'imbecille non capisce niente perché va dietro a quella falsa mistica. Purtroppo qualcosa di questo genere in giro si trova, ahimè, in omnibus caritas. E lo dico anche a me, perché non è detto che io, non essendo tutt'altro che perfetto, vi prego di credermi e di pregare per me, non a mia volta in qualche esternazione non manchi, ahimè, mi dispiace, e chiedo scusa prima, durante e dopo, non manchi la carità, perché magari mi scappa, ma non va bene. Perché se una cosa dubbia, qualcuno la pensa diversamente da te, è pazienza. Pazienza. È lecito, perché è una cosa dubbia. Se si mantiene la calma, come dire, la pacatezza e l'apertura al confronto, magari si possono anche cambiare idee, dilatare gli orizzonti. Ecco. Quindi il lavoro fatto, per quanto mi riguarda, è perfettamente possibile. Lecito, se non anche legittimo. Chiaramente lo consegna all'attenzione di chi vorrà ascoltarlo. Cioè, ha avuto un discreto credito, perché le cose che dice Teneramata sono meravigliose. Se fosse vero, come personalmente io ritengo, altrimenti io non avrei fatto, insomma, che anche il numero di puntate si è arrivati, non so se alla 38esima, 39esima, non lo so, quindi non avrei perso, impiegato mesi su mesi. Se non avessi avuto, come dire, il sentore che questa è una cosa attendibile. Ecco, è la 38esima puntata, controllare adesso così non diciamo sciocchezze. E quindi siamo arrivati alla fine. Ringraziamo il Signore se da tutto questo è uscito qualcosa di buono e di edificante per le anime. Io, come sempre, chiedo perdono per tutto ciò che a causa della mia miseria, pochezza, è venuto meno bene o è stato addirittura non spiegato bene, non adeguatamente approfondito. Abbiate sempre compassione e pietà, perché ecco, uno fa del proprio meglio, ma l'imperfezione strutturale, io lo chiamo così, almeno mi precede, mi accompagna e mi segue, quindi è sempre tutto quanto altamente perfettibile. Però questo è. Concludo con la preghiera che Don Pablo scrive al termine del suo libretto di commento. Il mio soffrire è una chiavina d'oro, piccola sì, ma mi apre un gran tesoro. È croce mia, ma è croce di Gesù. Quando l'abbraccio non la sento più. Non ho contato i giorni del dolore, ma Gesù li ha scritti nel suo cuore. Vivo momento per momento e allora il giorno passa come fosse un'ora. Due stille ancora dell'amaro pianto e poi in paradiso l'eterno canto. Sono ben certo che guardata dal di là, la vita tutta un attimo parrà. Passa la vita, vi gira di festa, muore la morte, il paradiso resta. Resta in terra per chi fa la divina volontà. Bello, il paradiso. E in paradiso poi, per tutta l'eternità. E siano lodati Gesù e Maria. E Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.